Finalmente, insomma, oggi arriviamo a questa firma. Il percorso è stato un percorso lungo, durato mesi, non semplice, di contrattazione, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e noi siamo soddisfatti della versione definitiva della carta, al cui interno ci sono praticamente tutti i punti di rivendicazione che abbiamo portato avanti da sempre, e quindi legati, insomma, alla questione sicurezza e assicurazione, alla questione del monte ore, alla questione delle indennità su maltempo e festivi, alla questione sulla privacy, diritti sindacali. Una carta che sicuramente segna un passo importante, un risultato appunto significativo. Allo stesso tempo, per noi non è, diciamo, un punto d'arrivo, ma semmai di ripartenza, perché comunque ora dobbiamo vedere chi la firmerà delle piattaforme, la carta, e poi di conseguenza quelle che la firmeranno dovranno, come dire, rispettarla, quindi ci sarà una contrattazione di secondo livello tra quelle piattaforme e noi lavoratori, in modo, no, da cambiare i contratti, adeguarli a seconda appunto della carta e di quei principi, e chi non la firmerà invece dovrà da una parte avere delle misure disincentive e sanzionatorie. Su questo, insomma, chiederemo anche al comune di farsene carico, e dall'altra, da parte nostra, sicuramente metteremo in campo delle forme di pressione e di mobilitazione, insomma, contro queste. Avete già qualche notizia su chi è intenzionato a firmare, chi no? Ma allora, su questo il comune non ha sciolto, diciamo, le riserve, lo scopriremo direttamente oggi pomeriggio. Sicuramente, insomma, sappiamo che qualcuna la firmerà, non sappiamo bene chi e quante, vedremo, insomma, oggi. Tu parlavi prima dei meccanismi di disincentivo, insomma, di sanzione, sono previsti dalla stessa carta? Allora, sulla carta si fa riferimento appunto a disincentivi e sanzioni per chi non firmerà, e, diciamo, al contempo invece incentivi per quelle che la firmeranno e l'adotteranno. Però, ecco, nello specifico questo non è scritto, diciamo, dovrà essere il comune a adottare queste misure per quelle che sono, insomma, le proprie possibilità. Quindi su questo, insomma, noi nei prossimi giorni cercheremo anche di sollecitare appunto lo stesso comune e di capire meglio quali potrebbero essere, insomma, queste misure. Ecco. Nelle ultime settimane ci sono state diverse notizie che riguardano il vostro lavoro, però appunto anche in altre città. A Milano un vostro collega di 28 anni ha perso una gamba e quindi è riesploso il tema, no, dell'assicurazione, che è una delle vostre rivendicazioni. Però anche qualche piattaforma ha annunciato prime misure, come appunto una copertura assicurativa, il riconoscimento di paternità e maternità. Come valutate queste novità? Sicuramente sono le novità importanti, frutto evidentemente, insomma, delle mobilitazioni, delle pressioni che ci sono state, insomma, in questi ultimi mesi a Bologna, ma come, insomma, da altre parti d'Italia e d'Europa. Quindi, insomma, molte piattaforme hanno, insomma, ceduto su alcune cose. Su tutte, insomma, questa è l'assicurazione. Dobbiamo dire però allo stesso tempo due cose, cioè che da una parte spesso, diciamo, queste assicurazioni private che mette l'azienda coprono massimali bassi o sono solo, diciamo, per danni a terzi, non coprono invece l'infortunio totale, quindi, insomma, non sono delle assicurazioni così vantaggiose, diciamo, adeguate. E allo stesso tempo, spesso di queste coperture assicurative noi riders lo scopriamo tramite appunto i comunicati stampa sui giornali, e quello che chiediamo noi invece è che ci sia più chiarezza rispetto appunto a funzionamento dell'assicurazione, e quindi che i diretti interessati, i diretti coinvolti siano i rider stessi. E quindi chiediamo alle aziende, ultima Deliveroo, di spiegare ai propri riders come si accede, come funziona, quali sono i massimali, eccetera. Insomma, abbiamo visto piccoli avanzamenti, ma anche uno stop, che è la sentenza di Torino. Essere riconosciuti come lavoratori dipendenti rimane ancora una delle vostre rivendicazioni? Sì, noi, insomma, il percorso che abbiamo fatto a Bologna anche con questa carta chiaramente, insomma, vuol dimostrare che innanzitutto, al di là, diciamo, del contratto di lavoro, poi abbiamo bisogno di diritti, di tutele immediate, insomma, qui ed ora. Questo è anche il frutto, no, appunto, della carta e del lavoro che è stato fatto. Dopodiché è evidente che da un punto di vista del rapporto di lavoro crediamo, insomma, che quello attuale, cioè di prestazione occasionale o nel migliore dei casi di co-co-co, sia inadeguato rispetto a quello che è la nostra mansione. Quindi l'arrivo, o comunque, insomma, il percorso è quello di andare a cambiare anche i contratti ed arrivare magari appunto a un contratto di lavoro subordinato o anche a, diciamo, nuove forme che si possono inventare rispetto a questo lavoro. Quindi, insomma, la strada, il percorso è ancora lungo e per niente scontato. Noi continueremo, insomma, a Bologna, ma come da altre parti d'Italia, ad andare avanti, a percorrere ogni strada.